vez mi misia publica, a sorpresa tra i primi click, inventai il mio nick. La sfogacciola io diventai, e con i video iniziai. Questa canzone è per te, per me, per te che clicchi me. Questa canzone è per te, per me, per te che clicchi me. Finì, e nel momento in cui floppai, la contessa e la concia vi portai, e sui miei tacchi mi rialzai. Ma con questo dico addio, questa canzone è per te, per me, per te che me. Questa canzone è per te, per me, per te che lichi me. Le riprese non si sa, una donna misteriosa le fa. L'ultimo acquisto è stato già, che nel backstage mi viene a far. Questa canzone è per te, per me è per te. Questa canzone è per te, per te, per me che clicchi me. Questa canzone è per te, per me, per te che...